L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera e bentornati all'altro pianeta che questa settimana vi porta in Mauritania, almeno per cominciare, paese dell'Africa occidentale, delimitato a est dal Sahara, a ovest dall'oceano, attraversato quindi dal confine tra mondo arabo e Africa nera. Confina, per dare un'idea, con il Senegal, l'Algeria e il Mali. E infatti in questi giorni di conflitto in Mali ne abbiamo parlato spesso perché è in Mauritania che si rifugiano moltissimi profughi. La Mauritania ha un po' più di 3 milioni di abitanti, la maggior parte nella capitale Nouakchott, di cui il 40%, secondo le statistiche, vive al di sotto della soglia di povertà. È una repubblica islamica che di recente ha varato la legge di cui parleremo oggi. L'utilizzazione degli emballaggi plastici souples è diventata un habitude di tutti gli atti della nostra vita, notamment dans le commerce général. Cependant, les emballaggi plastici souples, communément appelés azou, ecco, quello che sentite è lo spot con cui Mauritania si ricorda la cittadinanza che dal 1 gennaio nel paese sono vietati fabbricazione, commercializzazione e utilizzo delle buste di plastica, gli zazu, come vengono detti là. Le fabbricanti e gli importatori si esposano a un'amende di 10.000 a 1 milione di guia. Gli spot sono in tutte le lingue parlate dalla popolazione, noi vi abbiamo fatto sentire quello in francese per questioni di comprensibilità maggiore del messaggio. Per i trasgressori, dice ancora lo spot, e quindi produttori, venditori e consumatori che siano, sono previsti fino a un anno di carcere e multe per circa 2.500 euro. In un paese con un PIL pro capite da 2.000 euro, contro i 30.500 italiani per intendersi, non è poca roba. Stop! Aux emballages plastiques souples pour une vie et un environnement sain en Mauritanie. Il fatto è che, dice il governo, i sacchetti sono i principali responsabili della morte di bestiame e di specie marine, dal momento che si disperdono facilmente in natura. Secondo il ministro mauritano dell'Ambiente, nello stomaco dell'80% dei bovini abbattuti nei mattatoi del paese sono stati trovati sacchetti di plastica. Sono dati che sarebbero gravi ovunque nel mondo, ma in un paese in cui la ricchezza si basa su allevamento e pesca diventano devastanti. Mohamed Yahya Lafdal è docente dell'Università di Nouakchott e al Ministero dell'Ambiente è direttore di programmazione e coordinamento intersettoriale. Si è speso moltissimo per questa legge, ci sono sue intere pagine su Facebook e su Google Plus, per esempio, sul tema dei sacchetti di plastica, e allora l'abbiamo raggiunto e gli abbiamo chiesto di parlarci di questa nuova legge. I just wanted maybe to raise your attention, to draw your attention that the fact that this decision. Questa decisione va vista come parte del piano di sviluppo sostenibile del governo e del piano d'azione nazionale per l'ambiente. Il problema dei sacchetti di plastica, che ha radici nei decenni passati, è uno dei più importanti da affrontare per garantire la qualità della vita e lo sviluppo urbano in Mauritania. La questione è stata analizzata nel complesso delle soluzioni ecologiche possibili per la tutela dell'ambiente e l'innalzamento della qualità della vita nel paese. Così il governo, dopo aver incontrato e discusso con gli stakeholders, i partner istituzionali, la società civile, l'industria, ma anche le associazioni e le ONG interessate, ha preso questa decisione e dal 1 gennaio 2013 ha bandito i sacchetti di plastica dal territorio nazionale. Ma ripeto, questa non è una decisione improvvisa e isolata, ma il logico risultato delle strategie di sviluppo sostenibile del governo. Sono previsti problemi occupazionali? Ci sono molte persone impiegate in questa industria nel paese? I just would like to maybe draw the attention that this decision. Vorrei che considerasse che questo divieto è un decreto che porta la firma del Premier e di altri 4 ministri, quello delle finanze, dell'ambiente, del commercio e degli interni. Questo panel di ministri è responsabile dell'applicazione della legge e ne ha già valutato i possibili impatti sociali, e tra questi quello delle sorti dell'industria del settore presente nel paese. I piani su cui avrà effetto questa decisione sono 3: quello degli importatori, quello dei produttori e quello dei consumatori. Tenga presente che solo l'8% dei sacchetti in circolazione vengono prodotti in Mauritania. Il 92% delle buste di plastica usate in Mauritania sono importate dall'estero, soprattutto dalla Cina e dall'Asia in genere. L'impatto non sarà consistente. Le fabbriche possono essere riconvertite alla produzione di altri beni. Queste fabbriche non saranno chiuse, ma continueranno a produrre e quindi a impiegare personale. Solo 3 o 4 impianti, che producono esclusivamente sacchetti, dovranno del tutto chiudere, ma l'impatto non sarà numericamente significativo. Comunque, lavoreremo per mitigare le conseguenze di questo bando, ma resta inteso che era una misura necessaria. Quali alternative alle buste di plastica suggerisce il governo? Come Ministero dell'Ambiente, il nostro ruolo non può essere quello di spingere sul mercato una o l'altra soluzione. È più un ruolo che compete ad altri ministeri. In ogni caso, il Ministero dell'Ambiente è molto attento a questa questione. Le alternative che proponiamo sono principalmente carta e tessuto e ovviamente le buste di plastica biodegradabile. Credo che le alternative ci siano e che la cosa più importante è che non si usi più la plastica, perché solo così riusciremo a ridurre il numero di sacchetti per le strade o abbandonati in natura. Ho letto, ma mi dica lei se è vero, che un quarto della spazzatura della capitale Nouakchott è costituita da plastica. Sì, secondo i dati della raccolta dei rifiuti urbani, il 24% è plastica. In questo dato però si comprende tutto, non solo il polietilene dei sacchetti, tutti i polimeri. Quindi tutta la plastica rappresenta il 24%. E il governo intende prendere altri provvedimenti drastici come questo sui sacchetti di plastica relativamente, che so, alle bottiglie, per esempio? Sì, al Ministero dell'Ambiente ci si augura che questo decreto sui sacchetti apra la strada all'eliminazione di altri materiali pericolosi per l'ambiente. Ma bisogna tenere presente la specificità delle plastiche per i sacchetti, che sono a bassa densità, che svolazzano. Non possiamo, ad esempio, paragonarle alle bottiglie di plastica. Tra l'altro, oggi come oggi, le bottiglie vengono recuperate e riciclate. Ci sono molti operai impegnati nel campo del riciclo delle bottiglie. E poi queste sono contenitori pesanti. Non vengono sollevate dal vento e portate nei fiumi o sugli alberi. Certo, nel futuro dovremo fare altre scelte concrete. Ci sono altri progetti di legge da completare per proseguire nel cammino della sostenibilità. Da come parla, intuisco che c'è una discreta industria del riciclo lì in Mauritania. Sì, questa industria sta crescendo molto. Non è ancora molto sviluppata, ma sta facendo dei progressi. Credo che quando riusciremo a ricavare valore da ogni rifiuto, saremo arrivati. Abbiamo il personale e le ONG pronte. Per ora ricicliamo la plastica, l'alluminio delle lattine, gli imballaggi in metallo, vetro e carta. Ma il problema è che altri materiali largamente usati non possono essere riciclati, come il polietilene a bassa densità dei sacchetti di plastica. Tra poco vi diciamo anche come vanno le cose in Italia, dove crediamo di aver messo al bando i sacchetti di plastica. Preme però prima precisare che il bando in Mauritania è solo l'ultimo di una lunga serie di bandi che sono stati fatti in Africa, dal Kenya al Ruanda, all'Uganda e molti altri paesi africani hanno detto no ai sacchetti di plastica. Anche la Cina ha vietato i sacchetti, quelli particolarmente sottili, 4 anni fa. Ora il governo vanta risparmi da 4,8 milioni di tonnellate di petrolio e 800.000 tonnellate di plastica. C'è, come spesso accade in Cina, chi contesta questi dati, ma il punto è che un divieto per il paese c'è, mentre la produzione per l'estero è tutta un'altra cosa. E adesso veniamo all'Italia. Se siete convinti che qui ormai siamo a cavallo, vi sbagliate. I sacchetti di plastica sono già fuori legge in Italia, ma sebbene spariti dalla grande distribuzione, continuano ad essere usati negli esercizi commerciali più piccoli. Perché? Anche perché i trasgressori cominceranno ad essere multati solo 60 giorni dopo l'approvazione di un decreto interministeriale che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 dicembre 2012, ma che chissà quando passerà. Siamo in attesa, ha detto qualche giorno fa il senatore Francesco Ferrante, che fu tra i maggiori sostenitori del bando ai sacchetti, in una intervista a Eco dalle città, che è un notiziario online sempre molto aggiornato e preciso. Quindi restiamo nella bizzarra situazione di avere un divieto per la commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili, ma non i decreti attuativi che ne fissano le condizioni, l'operatività e le sanzioni per i trasgressori. Nel decreto devono essere definite anche le specifiche tecniche che chiariranno quali caratteristiche dovranno avere i sacchetti commercializzabili. Per ora, quindi, restiamo in attesa di informazioni. A tutti raccomandiamo occhi aperti se avete da segnalarci qualcosa. l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini l'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana alla stessa ora.